quel donna incostante e crudele amor m'incatenasti il core. Barbara, ancor d'infedeltà ti vanti, e questa la mercede che doni ricompensa alla mia fede. Forte campion, non ti vergogni ancora che una perfida donna ingannatrice ti pur tenga d'amor nel laccio involto. Scuoti il gioco crudel, vinci te stesso. Veggio il mio danno espresso nel doppio infido cor d'alcina ingrata. E una maga spietata che con occulta infame e forza, oddio, anco del mio Roger l'amor mi tolse, ma vendicar saprò l'oltraggio mio. Protegga il cielo i tuoi disegni e sia la tua vendetta ancor, vendetta mia!